Riflessi d'Oltretevere. Buongiorno e ben ritrovati a Riflessi d'Oltretevere. Il 94,7% dei sacerdoti nel mondo ritiene che internet e le nuove tecnologie permettano di migliorare la formazione. È questa la risposta della ricerca Picture presentata a Roma che ha ottenuto la percentuale più elevata. Abbiamo ascoltato il parere di Vincenzo Grienti della CEI, che ha pubblicato recentemente il libro Chiesa e Internet, messaggio evangelico e cultura digitale. I nuovi media, come i social network, forniscono un'offerta molto vasta di informazione e di formazione, quindi la ricerca rispecchia perfettamente il quadro. È chiaro che nella realtà, come sulla rete internet, occorre saper discernere e avere capacità nell'individuare siti web di qualità. Sono convinto che internet è uno spazio che può dare tante opportunità, ma che nasconde davvero tanti pericoli. Quindi competenza, buonsenso e responsabilità sono, a mio avviso, i tre ingredienti per poi poterli utilizzare per l'uomo e non contro l'uomo. Come emerge anche dal mio libro, nel mare magnum della rete ci sono quasi 20.000 siti internet cattolici italiani. Sono in aumento i siti personali, quindi molti siti di sacerdoti. Nell'ultimo anno basti pensare che abbiamo registrato un più 48,9% di crescita, a dimostrazione che, nonostante sia impossibile ovviamente parlare di nativi digitali nel mondo dei sacerdoti, c'è comunque un interessamento da parte di sacerdoti del mondo del web e in particolare del web 2.0. A questo poi si aggiungono anche tantissimi religiosi, laici, che hanno ampio interesse al mondo delle nuove tecnologie e quindi smanettano, tra virgolette, nel mare magnum della rete. Anche le diocesi si stanno sempre più fornendo di siti. Quasi tutte le 226 diocesi hanno un proprio sito, alcuni addirittura hanno aperto un profilo su Facebook, ad esempio. Anche il Papa lo ha detto recentemente, internet può essere, deve anche essere una nuova frontiera per l'evangelizzazione. Potrebbe sembrare un paradosso. Internet con i suoi quasi 20 anni di vita da un lato e dall'altro la Chiesa con oltre 2000 anni di storia, al centro invece la logica del cristianesimo. La logica del cristianesimo è stata sempre quella di incarnare la fede nelle culture del tempo, quindi non è assolutamente un paradosso, così come per la carta stampata un tempo, per la radio e la televisione e gli strumenti di comunicazione sociale sono un ulteriore possibile mezzo per comunicare il Vangelo. Non a caso nell'ultimo messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali Benedetto XVI sottolinea come lo sviluppo delle nuove tecnologie nella sua dimensione complessiva, tutto il mondo digitale, rappresentano una grande risorsa per l'umanità. 35 anni, appartiene alla Chiesa vetero-cattolica, separatasi da Roma nel 1870. Maria Vittoria Longhitano è la prima donna ordinata sacerdote in Italia. La cerimonia nella capitale, nella chiesa anglicana All Saints. L'ha intervistata Maria Luisa Pezzali. Emozionata, e mi sembra incredibile che mi sono svegliata sacerdote. Sogno di una vita che si avvera. Ma è il sogno di Dio sulla mia vita, che coincide con la mia autorealizzazione, e poi mi sento sopra una forte, fortissima responsabilità, come se fosse una vocazione nella vocazione, quella di essere un po' come Giovanni Battista, quello che apre la strada al sacerdozio femminile e che stimola un dibattito, un dialogo anche all'interno delle chiese che non hanno il ministero femminile. Mi sento anche come una persona che un po' sarà deputata a portare la croce di essere la prima donna sacerdote. Perché ha intrapreso questa strada? Perché il Signore mi ha chiamato e sin da bambina ho sentito questa vocazione dentro, che si esprimeva anche nel gioco, nel voler, come dire, giocare a celebrare la messa, ad amministrare i sacramenti. Come più volte ho raccontato ai suoi colleghi, da piccolina giocavo a spezzare il biscottino e a fare finta che fosse l'ostia. giocavo, organizzavo per le bambole, battesimi e prime comunioni, giocavo con la sciarpa a mo' di stola e oggi sono qui, grazie a Dio. Lei si augura che anche nella Chiesa Cattolica si apra la strada per il sacerdozio femminile? Mi auguro sì, che in tutte le chiese, gli ultimi baluardi professionali sono la Chiesa Cattolica Romana e la Chiesa Ortodossa, poi quasi dappertutto nelle chiese il ministero femminile. Sì, io mi auguro e penso che col mio essere cattolica e sacerdote posso dare un contributo, posso spargere un seme, mi auguro che anche in queste chiese avvenga prima o poi l'approvazione di un ministero femminile. Ora c'è Don Willy Volonté. Riflessi d'Oltretevere torna domenica prossima. Più sacro che profano. Crisi economica dell'Europa, secolarismo come elemento di negazione della religione, sofferenza all'interno della Chiesa, ecco i temi affrontati da Papa Benedetto con i giornalisti che lo accompagnavano a Fatima, in Portogallo. Chi pensa che i messaggi della Madonna a Fatima siano pietanze per anime bigotte prende una clamorosa cantonata. Quei messaggi affidati a pastorali semi-analfabeti hanno una portata culturale di altissimo livello. È un giudizio storico sugli avvenimenti che hanno travolto l'Europa dalla prima guerra mondiale ad ora. Messaggi che non solo giudicano il passato ma sono protesi a indicare il futuro. Tra i temi affrontati dal Papa, la dialettica tra fede religiosa e secolarismo è quello più radicale e attuale. Papa Benedetto dice che senza il dialogo si perpetuerà solo uno scontro. Una cultura europea, ha affermato il Papa, che fosse succube solo di ciò che la ragione ritiene evidente, non avesse la dimensione religiosa e trascendente, non sarebbe in grado di entrare in dialogo con le grandi culture dell'umanità. È un errore, ha detto, pensare ad una ragione pura chiusa in se stessa. Sarebbe semplicemente antistorica. Senza questo dialogo anche l'economia ne risulterebbe negativamente, perché sarebbe succube di un puro pragmatismo economico che prescinde dalla realtà etica e morale dell'uomo. Già il più grande filosofo Immanuel Kant ha fatto questo errore di rinchiudere la religione nei limiti della ragione. Gli effetti non sono stati così positivi per l'uomo europeo.